c'era dalla parte opposta di lì, c'era Celentano, se ti ricordi, quello che aveva arrestato, che aveva ammazzato una persona per droga, se ti ricordi, in quella viuzza piccolina che faceva da Versozzo a Coso, che tagliava a metà. Dunque, non mi insegnare a me quella via perché ci sono nato e avevo il mio padre. Dove parlava la farina, torna un po' più su, appena più su c'era Varta e poi c'era una Grand Prix che era di questo qua, non mi ricordo come si chiama, se Dino o come si chiama, non so neanche se si trova ancora, diciamo. Poi incrocio via Sorso per scendere sotto il ponte, si chiama via Palmaera, lì c'era Gavino Celentano. Te lo dico popolare perché la conosco come nel casco della zona, io sono nato lì, io ero appena più su di Natalino, quindi il bar di mio padre era appena più su di fronte alle case di Canada, diciamo. Pino? Sì, forte braccio. Pino forte braccio, lo sai, stai facendo basso di tale comunque. Se non lo ricordo, però mi ricordavo o Dino o una cosa del genere, comunque attaccata a Marta. Tino forte braccio, sì. Invece le canzoni l'ha lasciato Chopin, dalla parte opposta. Bene, bene, bene, sì, vabbè, non so quanto, io ancora non l'ho neanche conosciuto in frequenza, figurati. Un po' più giù c'era Roberto Coso, il figlio del parcheggiatore di Piazza Castello, Roberto Bandito, poi a fianco a Roberto Bandito c'era due ragazze che modulavano, a lui, figurati, sono stati CB. Pieno era prima, tutto eravamo attaccati quasi uno con l'altro, gira. E io l'ho detto, i punti non sarebbero pieno di CB, i punti c'erano 7 che muovavano, 7 CB. Della storia, nei tempi, vabbè, non tornavamo più, credo, però vabbè, anche quelli l'abbiamo vissuti, quindi possiamo ritenerci fortunati anche su quel fatto lì, dai. Bene, vabbè, dai, io niente, adesso preparo la cosa al bimbo prima di andare all'anna, perché anche lui, solo mi chiede la pappa asciutta, non è che ci vuole poco questo qua, ma prima di coricarsi, come detto lo stomaco. Va bene, dai, ti saluto anche a me, ciao Giovanna, un abbraccio. E un abbraccio, abbraccio, ho detto abbraccio perché un abbraccio e bacio. Ciao Giulia, ci sentiamo. Beh, riprendi Antonella, aspetto i saluti per Olivia. Ehi, ciao, ci sentiamo, stai bene, buonanotte a domani. Dopo mi è sembrato Giulio, sono lì, ho una voce bassa, sono lì, se non mi sono sbagliato. Ciao a tutti, ci sono anch'io, dopo lunga e ponderata cosa ho deciso di buttare la spazzatura domani, ero stanco. Ciao a chi all'ascolto, volevo chiedere a Tino una cosa, sono veloce. Sono qua, dimmi. E alla fine praticamente stavo dormendo col paracchino vicino, dai. Ok, ma tu come ce l'hai il manuale? Cartaceo o PDF? Perché ho trovato un PDF del 5005 online ed è in italiano. E, siccome magari poi sai a scrivere le cose, potrei mandarlo a Claudio Massimiliano e poi te lo girano. Poi se ne vogliamo discutere delle voci lo facciamo domani quando capita. Tutto in italiano, Ma guarda, io l'ho trovato anche, però non mi specificava come entrare nel menu e passo passo vedere cosa come interagire nel menu, diciamo, come alzare le perché mi diceva no, ci vuole il carretto, bla bla bla, e vabbè, io voglio provare così manualmente, vediamo un pochino se cambia la cosa, tanto è vero che quello che mi hai detto tu, io sono entrato nel menu e mi hai detto che ha aumentato molto l'amplificazione, quindi io adesso ce l'ho a metà, volevo dal menu che ho visto in PDF, mi diceva che la massima potenza mi sembra che era 60, 64, adesso non mi ricordo la misura esatta, però mi diceva come andarci, hai capito? No, comunque che quello italiano è il 5005 a 12 watt AM, 40 FM, 30 SSB, con i parametri di fabbrica, non è un apparecchio fatto per i 60 watt, 60 li dà il 9009, il CDT 9009, quello li dà, dovrebbe darli. Poi ti volevo dire le finezze di Clarifier in questo apparato 5005, può funzionare a tua scelta solo in ricezione, solo in trasmissione oppure trasmissione e ricezione, quindi non solo puoi centrare in ricezione ma volendo puoi anche centrarti tu in frequenza, è una finezza che magari altri apparati del passato non avevano, dipende. Beh, è molto comodo anche quello, vedi? Sì, è molto comodo. Questo qua, vabbè, diciamo che è stato un po' accelerato, un po' preparato tramite qualche sbaglio che abbiamo fatto, forse un po' io, un po' chi me l'ha detto, non voglio fare nomi, però in radio mi ha detto, guarda, se tu che questo qua, per dire il V10, adesso, così a memoria, V10 e l'altro era V501 mi sembra, ti aumenta molto la radio, quindi cosa ho fatto io? Ti ripeto, ho fatto un po' lo sbaglio di aprire e non guardare, però non guardare i fatti, quindi cosa è successo? Che ho alzato il primo, il 501, e ha aumentato molto la modulazione. Lo sbaglio mio è stato che non ho guardato il wattmetro, quindi quando ho fatto la seconda regolazione l'ho fatta e mi diceva quello che si è abbassato adesso, adesso si è alto, adesso si è basso, ma chi me lo diceva era talmente vicino a me che quindi non riuscivamo ad portare al massimo l'apparato, non pensando che magari poteva anche attaccare del danno, ecco, perché magari quando fai determinate regolazioni, magari aumenti di radio di impatto, però automaticamente vai a compromettere altre componenti, no? E allora cosa ho fatto? Vabbè, ho lasciato così, ho detto, basta, non faccio più niente, no, perché c'è un'altra modifica, no, basta, non faccio più niente, ho detto, guardate, ho provato così, con la radio girata, guardando, cercando di guardare un po' impatto, e li ho portati a 5, ma aveva dei picchi di modulazione che faceva da Santiago 5 a Portante Bianca a 35-40 AM, sono troppo esagerati questi guatti tra me, no? Vabbè, momentaneamente li ho lasciati così, tanto è vero che poi quando mettevo in FM mi dava più di 50 watt, come tuttora, però cosa succede? Che adesso me l'ha allineata, mi ha fatto tutta la regolazione come doveva essere fatta, tanto è vero che io se abbasso tutti i watt, abbassa per dire a 2 watt, ma con un picco di modulazione a 15 watt, questi con i watt a 0 parlo, ho la mia scelta li posso alzare per dire a 10, però con picchi di modulazione a 35-40, sono troppo esagerati. E niente, però è una radio che spinge. In FM cosa devo fare? Quando metto l'FM succede, poi mi direte cazzo che sono peggio di Falcone facendo questi passaggi, però se taglio il discorso poi non riesco più a riportarlo dove l'ho perso. In FM succede che devo giocarmi con il power per portarlo alla cosa che generata, ecco, ti rilancio per versione più lungo, Marco. Sì, in breve, sì, i watt in AM 30 watt modulati sono tirati, non lo so, questa nasce come 12, massimo 12 di portante multa, non lo so se cioè, ti durano meno i finali, boh, io se li lascio così, io l'unica cosa, la modulazione AM deve essere buona, per cui solo il trimmer. Adesso ho perso io il filo, però porca miseria. Cosa volevo dire in breve? Vabbè, la programmazione al computer più che altro serve per i canali, no? Perché che ne so, c'ha delle vocine poi stupide, tipo puoi disabilitare con la programmazione al computer la manopola dell'eco. c'è la disability e praticamente anche attivandola non funziona, ma l'eco uno non lo vuole, basta lasciarlo spento tra proprio lo scattino, ecco che l'eco non influisce, capito? Per esempio gli inglesi ci hanno, anziché il 5 finale, ci hanno l'1 finale, 1.2, e poi ci hanno canali diversi dai nostri, proprio spostati in alto, vanno da 27.601.2 in origine, poi gli hanno dato anche i canali nostri, che adesso i polacchi se lo programmano con lo 0 finale, perché in Polonia non hanno il 5 kHz finale, ma hanno lo 0 finale, tipo, che ne so, 27.070, ecco, per loro il 10 corrisponde a quella 27.070, quindi ogni nazione se lo programma come vuole, e poi il resto, che dire, poi comunque il file te lo faccio bene o tramite l'uno o l'altro te lo faccio bene, perché poi se te lo stampi sai, più ordinato, sì, comunque è un po' lacunoso anche come manuale, perché i vecchi baracchini ti davano un libro di istruzione, un libro vero e proprio, questo sono pare 3 paginette, ti hanno detto tutto, può lasciare dei dubbi, dai, alle volte. Ok, vai Antonello. C'è il manuale che ho io, della bike nuovo, non c'è schema, non c'è un cazzo, non c'è schema di microfono, mi sono dovuto mangiare stasera piano piano, prima mi sono fatto uno, ma avevo paura perché cazzo, se sbaglio poco a poco, mi si brucia il barattino e ho buttato 89 euro la mondezza. Allora piano piano ho cominciato a controllarmi i contatti, uno per uno del microfono, finché non mi sono accorto che erano tutti rullati, meno male. L'alimentazione dove ho solo automata, che mi sono rullato e non è agganciata, meno male. Quindi sono anche fortunato. Vabbè, ho lanciato l'M43 a Natalino e pure l'MP4. Non è che sia tutto questo, anche l'unica cosa che manca è il clima dell'RC, che non ce n'è. C'è solo queste regolazioni delle trasmissioni di ricezione del display, di quando parli e quando ricevi. Basta, non c'è nessun'altra cosa. RC non esiste, è fisso. Adesso finché non riesco a buscarmi lo schema, il manuale di service, per sapere qual è il RC, in modo da cambiare il componente, così almeno aumenta la radio, perché Bari è soffocata a Bari. Per carità, ma per chi lo usi brutto, guarda, in trasmissione non mi è mai capitato, guarda. In ricezione è una bellezza, ma in trasmissione proprio non è preso, buttato la mondezza. E poi, vabbè, chi altri c'era da salutare? Chi c'era? Giulio, che ha parlato piano piano, saluto comunque tutti quelli d'ascolto, dai. Sì, dai, sto facendo ascolto, così gli conciliamo il sonno, poi tanto ci fa una risata per la cagata che dicevo, va bene, guardi. No, c'è anche Giovanna ancora. Credevo di no, credevo che avesse chiuso. Oh, una cosa comunque inconcepibile a mio modo di vedere è che questo apparato, cioè tu li programmi i canali al computer se vuoi, però se tu modifichi la frequenza col clarifier, no, puoi selezionare i passi di 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 100 kHz, no. Metti che tu vuoi parlare con un inglese su 27.601.2, no? Quindi fai tutte le operazioni che devi fare, però poi cambi canale, no? Cambi canale con il selettore dei canali, quel canale rimane modificato. Insomma, succede che è la prima volta che l'ho usato dopo la programmazione, spostando frequenze, cambiando canali, insomma mi trovavo il clarifier che non era mai in posizione centrale e i canali me li sono trovati tutti sballati, tutti modificati. Beh, l'ho dovuto riprogrammare, quella è una cosa che non mi è piaciuta niente di questo apparecchio. Cioè il canale programmato comunque deve rimanere tale, cioè una volta che spegni e riaccendi ti deve ritornare normale come l'hai programmato il canale, invece qua rimane modificato. E quindi succede soprattutto, sai dove, Tino? In SSB, quando devi andare, che ne so, con lo 0 finale, no, che non tutti sono con 5 kHz, su frequenze intermedie, insomma, pasticcia tutti i canali. E ho dovuto riprogrammarlo quando era ancora, quando era nuovo, che non lo sapevo trattare. A me sembra una schifezza come cosa. Comunque, il CRT questo qui è così, tutti quelli uguali a questo, no, al 5500 sono così, il 7900 idem, 9900 idem, tutti così li fanno, è una cosa che non concepisco comunque, questo che ti altera i canali se tocchi il clarifier, ricezione o trasmissione o tutte e due. Sì, l'ho montato perché io, allora, diciamo la verità che non è di primo pelo, come si suol dire, questa radio qua, perlomeno l'hanno presa, l'hanno accesa, eppure hanno conservata nell'armadio, però per programmarla l'ho avuta un'altra persona che io conosco benissimo, vabbè, l'ha programmata, fatto, me ne sono accorto anche io di questa cosa qua, tanto è vero che io andavo a fare uno dei canali, ma non è così, conoscendo il frequentimetro, allora andavo a girare le clarifiche, quindi l'ho dovuta resettare per poter fare nuovamente tutto il canale normale, diciamo, perché non mi interessavano, poi rimanevano in memoria alcuni con l'eco, alcuni no, alcuni in SSB, insomma ho fatto un pochino una miscelaccia generale, ecco. No, ti voglio far fare una prova, Marco, però devi stare attento. Allora, tu vai dove c'è l'eco e il tono, no? Il pomello grande lo porti, così giusto per farmi sentire com'è, lo porti alle ore 10, pressa poco, alle ore 10, mentre invece quando accendi l'eco, l'eco lo porti all'ora, all'una, e poi provo a parlare e vediamo come si sente l'eco. Sì, quindi rotella esterna a ore 10, rotella al pirulino centrale a ore 1, prova. Sì, affermativo, proviamo così, perché me l'hanno regolato così l'eco, volevo sentirlo come si sente, perché io qua sinceramente non riesco a sentirlo, perché se lo metto in PA inizia a innescare, perché ho il più 5 attaccato, prova. Aspetta, ma tu hai detto a me di provare, cioè non lo stai provando tu, allora devo cambiare apparato. No, lascia allora, fregata, no, se pensavo che stavi utilizzando quello lì, il 5005. Oh, tanto è qua a me, è acceso, ce l'ho sopra l'altro, è acceso, mi sento pure, eccolo qua. Allora, cambio, attacco l'antenna, un istante, e anche il mic li attacco. Vabbè, se non ti crea problemi, ed è facile farlo, cioè non è impegnativo, va bene. Ma tu vai, sono qua, attacca così profi. Diciamo se c'è Giovanni, ci sei ancora? Sì, ma sto ascoltando. Stai ascoltando? Come ti hai già addormentata? No, sono andata con Giorgio Antiera, che sono stata qui. Ah, capito. Andava bene. Ancora giovanotti. Infatti l'ho rilanciata, ma ho pensato magari, sai, gli impegni che hanno non ci metto male, quindi non so se c'era o meno, magari stavo facendo cose ai bambini, non so. Va bene. No, è andata a Gian Piero per controllare se c'era bisogno di qualcosa. Ahia, clappa. Come un attimino che il limite va, come in te questa cosa, ecco qua, facciamo 4 5 era una cosa del genere. Posso? No, fai, se hai messo come lo hanno impostato a me, ti ripeto, ore 10 e l'altra luna, il piccolino a luna. Eia, allora. Anello esterno, ore 10, pirulino centrale, ore 1, microfono normale, quindi normale. Ecco, io non mi sento, appena incassa qualcosa. Lo sento, ecco, questo è come esce l'eco, nudo e crudo con mic normale, 1, 2, 3, prova, come velocità, come per esempio a me piace molto veloce, ripetizione veloce, breve poi deve essere, come lo trovi? Ma io, vabbè, se così mi non dispiace, ecco, ma questo me l'hanno fatto fare in questa posizione, per quando vai giustamente sul canale 45 a fare un po' di baccana. Ma te lo faccio sentire, guarda. Devo stare attento a non sbagliare il microfono, se no brucio tutto qua. Mi sto ascoltando l'altro baracchino. È troppo ripetuto. A me piace più leggero. Vediamo. Bene. Questo è quanto. Non so se a te piace questa radio un po' più spinta, forse. Sai cos'è? C'è il microfono amplificato, gli fa ancora più ripetizioni. Antonello, più o meno è pari come velocità ripetizione di eco. Prova. Vai Tino e poi Antonello, dimmi com'è. Prova. Cioè è simile tra due apparati, adesso ci possono essere piccole discrepanze. È quasi simile, comunque già va bene. Hai notato, Antone? Abbiamo cambiato anche il beat, eh? Sì, l'avete fatto stasera quando ce l'ho io. Gli ho dato mille i parametri, Marco, ti ha dato del beat. Bello. Va bene, però a me sinceramente quando si parla così da salotto preferisco l'eco, metterlo sotto il salotto, sotto il divano. Guarda, ecco, questo è l'eco che posso concepire io, appena udibile, seppure si sente, veloce, eccolo là. Ma io sinceramente non sento eco. Talmente al minimo, no. Ecco, tipo così. Cioè la ripetizione si sente comunque, mi sto ascoltando con l'altro. Ma cosa è infinitesimale, Mitty? Perché quando comincia a essere troppo marcato, Mitty, rimani al lugar, tipo aspetta. Tipo prova, attenzione, la cambio. Sì, così no, così è troppo ripetitivo, non ho... quello lo uso sul canale 45 a fare casino e basta. Oppure veloce. Sì, anche perché poi ti ripete l'ultima parola che dici. Poi un'altra cosa informativa sempre, che so, aspetta il bip lo levo comunque. Allora, il clavifier, no? Visto che non è il superstar che c'è un fondo corsa, no? Sembra che giri all'infinito da una parte all'altra, no? Invece no, c'è un numero di scatti limitato, anche se è molto grande. Ti faccio, adesso non mi ricordo quanti siano gli scatti, ma ti faccio un'ipotesi, no? Che ne so, ha 50 scatti in totale, il clavifier da un'estremità all'altra. Io per pignoleria l'ho voluto mettere al centro, cioè sono andato tutto da una parte, poi tutto dall'altra contandoli e l'ho riportato a metà, tipo a 25 scatti. Adesso non ricordo gli scatti totali, però la morale della favola è che l'ho messo a metà di tutte le posizioni disponibili, tutti gli scatti disponibili. Capo. Sì, però poi è dovuto resettare e lasciare il clavifier centrale. Anzi, ecco cosa ti volevo. Prima di riprogrammare ho riportato in posizione iniziale il clavifier, cioè tutti gli scatti disponibili ho messo a metà, quindi resettato, riprogrammato e l'ho lasciato così. Però ogni volta che io vado, che ne so, sui canali alti, c'è uno che non è col 5 finale, lo devo centrare, no? Mi devo centrare la trasmissione. Poi però mi devo ricordare di riportare il canale nella posizione originale, perché se non mi rimane sfasato. Questa è una cosa inconcepibile. Bastava spegnere l'apparato, per dire, no? Un programmatore serio, non cinese, bastava spegnere, riaccendere e te lo riportava il canale come l'avevi programmato. No, rimane alterato il canale. Sì, ho capito. vabbè, dai, e cosa deve farci? E così. Va bene, dai, signori, io niente, non ce la faccio più, sono stanco, stamattina presto qui ho dato la mano a un amico a scendere delle antenne, quindi sono più stanco che... più assonnato che stanco, diciamo, sono più... mi sono alzato presto, e poi... anche le mie, la mia ginnastica mattiniera con la zappa, ho fatto qualche solco per piantare, quindi dare una mano a mamma, che anche lei è una persona che piace le pietre, roba qua, quindi le ho volute piantare, e per non far prendere la zappa a loro, insomma, ho dato di mio. Va bene, ne approfitto perché ormai così saluto Giovanna, a Antonello, a te Marco, a Giulio e agli eventuali ascoltoni, dai. Niente, aspetta il saluto e poi vado via. Riprendi Marco, Aia, bene, giornata lunga, ci vede che siamo alla frutta, con questa storia della clausura. Vabbè, io non riesco a dormire, io prima delle 5 non prenderò sonno, nonostante tutto quello che prendo, anche valeriana e melatonina forte assieme, capito? Va bene, ti dai buona serata, non tutto, ti faccio avere, magari non glielo mando adesso, se no vedono messaggi a quest'ora e si allarmano, domani già c'è tempo. E poi qualche delucidazione, stasera, ma io guarda, credo che tutti i parametri, sia quelli da programmare al computer, sia quelli manuali con il tasto function, siano rimasti quelli di fabbrica. Cappa. Vai Antone. Eia, ciao, ci sentiamo, buonanotte, alle prossime domani. Ci sentiamo la parte domani mattina, così almeno ci metti un po' di piante da frutto. Metti carciofi, banane, kiwi, qualche cosa di buono, in modo che poi prenditela a 20, capito? Non si sa mai con questo periodo qui, che è strano, tutti quasi stiamo localizzando, mettono le piante sopra i tetti adesso, non sia che arrivi, che ci danno i negozi del tutto, fra 15 giorni, meglio prevenire il curare. No, no, da 20, qua bisogna... Bisogna mangiare per sé, cosa vedi? Ciao, stasera tutti, la metà in giro, lunedì mattina, la cena stanza di verrai, oia, ci sarà la vita, ci sarà tutti in giro, lì a quadrato, la mercatina, a comprarsi la roba. Ma guarda, giusto questo passaggio è, oggi mi sembrava un giorno come gli altri, ma prima di succedere sto a parlare, ho visto tanta di quella gente in giro, gente correndo, a ripunti lo stesso, chi saliva, chi scendeva correndo, c'è chi con la mascherina, c'è chi non, e però vabbè, sarà che ormai hanno preso l'avvio di uscire, vabbè, poi sinceramente... Non so, è una mia idea, per me queste cose sono una cosa un po' dirottata, un po' voluta, un po', insomma, non voglio entrare in quel discorso lì perché poi diventa troppo lungo anche, però la gente o la prende alla leggera o chi la prende troppo alla pesante, capito? Così. Va bene, va bene, va bene. Vi saluto signori, guardate esecutivo da parte mia, non riprendo più, quindi ritenetevi tutti salutati. Ciao, buonanotte. Ciao a te, ciao domani, avanti Giovanni. Ciao Tira, buonanotte. Ciao Antonella, ciao Marco, io devo rispondere, direttamente del tuo signore. Ehi, va bene, non c'è problema. Già ci vediamo domani, ciao Giovanni, buonanotte. Poi lunedì ci mettiamo il cavo, se aprono quei cinesi di coso, cioè si apre, c'è stato lunedì mattina questo fusato. Così ti metti il macchino in camera da letto, fai prima, se no li muori al freddo, muori in terrazzino. Anzi, domani dopo domani muori al caldo. Poi c'è un freddo e neve, fra due settimane. Vabbè, Anna, parliamo domani. Ciao Giovanna, buona serata, buon tutto, dai, buonanotte. Ciao, grazie Marco, buona serata. Io vado a vedere un pochino calduccio. Sì, d'accordo, c'era uno comunque già va che Marco, che saliva sopra l'albero per monolare con portatile da poco. Ah, quindi Giovanni Terrazzino, non è comodamente nella camera da letto per dire o salone, caspita. Ah, sì, si è trattenuta molto, è stata abbastanza stoica. Allora, carrozzino, adesso mi do l'idea per mattina quando apre il fusello, gli piglio direttamente di campo e glielo metto in camera da letto provvisoriamente, intanto poi appena arriva l'antenna, quella che ho ordinato, la terrazzina muoverò direttamente nell'altra camera, almeno sarà più tranquilla dentro casa, tanto il foro c'è, quindi sì, non c'è nessun problema. Eia. Questo microfono gli devo mettere un pezzo di cotone che tenga la capsula ferma. Eia. Bene, Antone, dai, ogni modulazza, che ora è? Mezzanotte 23, fuori di Giappu. Abbiamo infranto il primato, mi siamo arrivati l'altra volta, mi pare a mezzanotte, non so con chi ero, se ero. Manco me lo ricordo con chi ero. Sì, beh, non hai fatto niente perché il coso l'ho infranto io, fino alle 3-4 del mattino, no chi di tu, chi di tu. Chi sarei guardo. Ha preso già più e mi ha tirato. Non mi ricordo cosa diavolo era in pezzi cucino, quella cazzo mi ha tirato. Ora chiudi questo baracchino, sono tutto tirato a testa, mi ha detto. Eia. Io ho dovuto abbassare il volume a ricezione. Alzarle a questo per non disturbare mamma, no? Perché qua poi rimbomba un becco, il silenzio che c'è fuori, eccetera, adesso che c'è poco traffico, no? C'è un silenzio di tomba anche di giorno, soprattutto a fine serata. Bene. Comunque Antone, avevi visto quel baracchino che ti avevo mandato su WhatsApp? Quel baracchino, guarda, è simile a questo, è un Alinco DX10, che è l'ex Alinco 135 DR, no, DX, 135 DX. È carino quello, molto molto simile a questo, però ha dimensioni più contenute, che costa solo 180 euro, mi stava piacendo. Ma perché non te ne vai a pagare, c'è cazzo, potrei vedere gli spendere sul mio baracchino, grazie. Carità, guarda. Guarda, ti ci porto io, guarda, ho portato a Antonio Godotto e ti ci porto anche a te, cazzo. Almeno 50 euro te li spendi, cazzo, con grazia. No, io sono contrario ad andare a bagarsi. Primo perché secondo me 50 euro non valgono quello che ti danno. 50 euro sono 100.000 lire, non so se mi spiego. E poi andando a bagarsi favorisci, scusando il termine perché ascolta, favorisci la, stai fomentando la prostituzione e quindi gli aguzzini che sfruttano queste povere disgraziate, capito? Guarda, già ti metto i prezzi, grazie, capito? Così metti con l'acceggio e fai il foro, ci puoi mettere i prezzi, grazie. Così almeno non ti pigli la malattia, hai capito? Tu non la tocchi per niente, né con le mani né con la bocca, quindi. Sì, ma non è per le malattie, ti ho detto che chi va, scusa, è come chi acquista droga, acquistando droga, tu stai favorendo lo spaccio, cioè stai favorendo tutto questo mercato, l'importazione, il traffico della droga. E poi costa troppo. Alla fine, siccome 50 euro per quella cosa lì sono troppe, io te l'ho detto cosa faccio, no, mi metto 50 euro in tasca, poi c'è Maria Mano e sono soddisfatto lo stesso, non so se mi spiego. Vabbè, adesso non insegniamo a discorsi scabrosi, non so se ti ricordi quel film con Leslie Nielsen, no? Mi pare si intitolasse una prottola spuntata 33 e un terzo, praticamente lui e la tipa dice noi facciamo il sesso sicuro, si erano messo un profilattico gigante che all'altezza d'uomo ci coprivano interamente tutte e due. Finiremo così mi con questa storia. Vedrai, lunedì cazzo ci sarà quello che è stufo della moglie, cazzo, talmente stufo di vederla tutti i giorni che non può neanche toccarla, la cosa che fa dove vai, lunedì o martedì ci recalirà dove dico io e ci sfoga, ci sarà la fila fuori, lo dico io con le mascherine, una alla volta per 15 minuti. Poi problemi, non lo dico solo io, quando finirà questa storia della del distanziamento eccetera, ci sarà un impressionante aumento di donne incinte e quindi di nascita, vedrai. E sostituiranno, ne nasceranno tanti da sostituire tutti gli anziani che sono purtroppo passati a miglior vita. Sì, no, ma non puoi toccare tua moglie, neanche la fidanzata, non hai visto che è un casino. In casa non puoi fare nulla, neanche se dormi a fianco nel letto dove è lì, non puoi fare nulla. Quindi, adesso già ci diverto, te lo dico io, passato quel male, oh iaia, vedrai come ci diverte la gente adesso. Sì, praticamente tutti li arretrati, mesi di, capito, si sfogheranno dopo mesi di... Sì, vabbè, lascia perdere Antonio, comunque non esageriamo, che lui che è marito e moglie nell'intimità di casa non facciano tutto. E cosa ti entra? Il poliziotto a controllare se stai trombando dentro la camera? No, non ti entra. E perciò dicevo che io assurdo che marito e moglie non possano stare nella stessa macchina, no? Nemmeno con mascherina, perché li multavano, e poi a letto possono fare tutto, è una fesseria, vabbè, comunque. Antonè, dai, chiudiamo, ci sentiamo un altro giorno, ok? Guarda, ci stanno veramente rincoglionendo tutti i giorni, sempre la stessa cosa, tutti i giorni sempre la stessa cosa, alla fine la gente ne ha quello di chiedimi, di accendere il televisore, ma non so quante gente non sta più seguendo la televisione per questo fatto qua. Onestamente ti stanno mettendo le cose in testa, che manco con tua moglie lo fai, hai capito? Perché tu non sai magari che se tua moglie e tu esci di cimuta a fare la spesa, ma la vanno con vicino di casa, hai capito? Il discorso è quello lì, la gente ormai ha timore, quando finirà tutto vedrai, quella magari rimarrà incinta, può essere bianco e diventa nero, o quell'altro che sì, c'è il figlio cinese, hai capito? Il discorso è quello lì. Sì, Antonio, hai perfettamente ragione. Infatti quello che vedi in TV, che senti nei notiziari giorno per giorno e anche nei programmi vari, è un vero e proprio lavaggio del cervello. Ricordati che la televisione, come tanti altri, è uno strumento per controllare le masse. C'è chi ci fa condizionare e chi non ci fa condizionare, per fortuna. Ti ricordi che scrivevano graffittari sui muri, TV lobotomia? E ci sarà un perché a questa cosa. Vabbè, ma non dilunghiamoci, se no in oggi facciamo di zinco, ok? Ciao Antonio, buonanotte, buon tutto, ciao a tutti, ciao. Ciao, ci sentiamo domani, ciao. Buonanotte. Mi raccomando, usa i guanti per fare mani a mano e la mascherina specialmente, non sai che ti spunti addosso. Ciao. Sì, una sagoma sei, Antonio. Ciao. Ogni volta guarda che io esco, Simona mi fa due coglioni. Mettiti la mascherina, mettiti i guanti, poi arrivi a casa, fai una cosa, lavati le mani con l'alcol, togliti i guanti, poi devi uscire, mettiti nuovo la mascherina, mettiti i guanti, alla fine tu vai a far culo tu la mascherina e i guanti, ho detto se devi vedere qualcosa ti giri e tu ti viene. A me ok, tu lo mettono sotto in tram, gli ho detto, senza mascherina, senza guanti, direttamente metto la cassa da morto, gli ho detto. Lo so Antonio, magari un minimo di prevenzione ci vuole in tutto, comunque secondo me hai più probabilità di finire sotto un tram schiacciato che non pigliarti il virus, ok? E perciò dai, buonanotte, ci sentiamo, dai, non riprendo, ciao ciao. Ciao ciao, domani ci sentiamo, ciao.